L'azienda committente è la Nexiv, che è l'azienda che lavora per conto di Poste Italiane. Nexiv che è stata assorbita da Poste Italiane e che però ha all'interno una cooperativa, la WorkPlus, che è all'appalto e nella quale operano circa 50 lavoratori, molti col tempo indeterminato, qualcuno col tempo determinato e a cui però abbiamo fatto prolungare i contratti fino a fine novembre o anche a fine dicembre. Improvvisamente a giugno, il 28 giugno del 2021, casualmente alcuni lavoratori si imbattono in un annuncio nei giornali specializzati in cui si evince che il capannone nel quale operano è stato messo in affitto e dovrebbe essere libero entro la fine dell'anno. Quindi a questo punto la cosa ci suona male, chiediamo un incontro alla WorkPlus, che è appunto l'azienda che ha l'appalto, e a Nexiv. Nexiv ovviamente non risponde, WorkPlus ci dice assolutamente non sono vere le cose, Nexiv non ci ha comunicato niente, quindi per noi l'appalto va avanti. Poi dopo poco scopriamo che ai dipendenti diretti di Nexiv, che sono una quindicina, è giunta una lettera nella quale vengono informati che a partire dal 15 settembre cambieranno il luogo di lavoro senza specificare dove, e a quel punto capiamo che la riorganizzazione di Nexiv porterà al licenziamento di oltre 50 lavoratori. Al momento però non c'è stata nessuna comunicazione ufficiale sul licenziamento. Al momento non c'è stata nessuna comunicazione, però tra oggi e domani, dopo che il WorkPlus e Nexiv ci sono sentiti, dovremmo essere messi a conoscenza della fine che faranno questi lavoratori, ma è del tutto evidente, insomma, che il rischio che altri 50 posti di lavoro si perdano è assolutamente reale. Voi avete proclamato lo stato di agitazione? Sì, assolutamente sì. Cercheremo di evitare che il magazzino venga svuotato completamente. Adesso i volumi sono improvvisamente crollati. Nello scorso anno il magazzino era pieno, adesso oramai è semivuoto. E siccome appunto secondo noi c'è anche un problema di intermediazione di manodopera, perché i lavoratori di WorkPlus venivano comandati da un responsabile di Nexiv, quindi noi agiremo su due strade. La prima è quella della mobilitazione, lo sciopero, e presumibilmente chiameremo in causa anche Poste Italiane, che è il nuovo datore di lavoro dei dipendenti che prima erano impiegati in Nexiv, e poi avvieremo una causa legale per provare che c'è stata intermediazione di manodopera e per dimostrare che quei dipendenti di WorkPlus in realtà erano dipendenti di Nexiv, in modo appunto che per aprire appunto un'altra strada, un'altra possibile strada. Però è chiaro che chiameremo in causa Poste e a quel punto probabilmente andremo a chiedere conto in via Zanardi, dove c'è il centro meccanografico delle Poste, perché pare, ma questa è una cosa ancora incerta, che quei lavoratori di Nexiv andranno a lavorare al centro meccanografico. Le istituzioni verranno coinvolte? Sì, le istituzioni verranno coinvolte, ci sarà l'ennesimo tavolo di crisi. Il problema è che a fronte di 50 posti di lavoro probabilmente qualche altro posto di lavoro da qualche altra parte salterà fuori, poi il problema si chiuderà con una buona uscita, che però non risolve il problema, perché poi, per quanto consistente possa essere una buona uscita, lì in questo caso si tratta di lavoratori molto giovani che hanno ancora anni e anni e anni di lavoro davanti, per cui anche una buona uscita sarebbe assolutamente insufficiente per coprire, diciamo, le loro esigenze. È chiaro che io in particolare sono assolutamente contrario, insomma, a risolvere le questioni con delle buone uscite. Io penso che noi dovremmo chiedere la difesa del posto di lavoro e pretendere il lavoro, visto che c'è. Anche in questo caso non è che c'è un calo di lavoro, semplicemente si tratta di una riorganizzazione da parte di Poste Italiane, e ovviamente quando si tratta di organizzazione o c'è l'aumento di profitti e comunque non è sufficiente, come nel caso di Logista, che decide di portare la propria produzione a Tortona e in provincia di Roma perché non viene applicato il contratto nazionale e quindi il costo del lavoro è minore per aumentare i profitti, in questo caso è una riorganizzazione che va nello stesso senso e che ci rimette sono i lavoratori. Ovviamente non è tollerabile. È chiaro che noi la cosa che sappiamo fare meglio sono la lotta e sono gli scioperi e i blocchi, e continueremo su questa strada, insomma. Tu hai citato Logista, che ricordiamolo voleva licenziare i lavoratori via WhatsApp. Voi avete scoperto di questa chiusura di Bargellino attraverso un annuncio. Le aziende che si muovono così in modo un po' truffaldino sono diverse, sì, nella logistica. Sì, sì, sì, sì, sono sono, diciamo che in generale, no? Se tu ci pensi, viene fatta un accordo per sbloccare i licenziamenti e viene chiamato raccomandazione, e quindi oggi gli imprenditori, i padroni assumono ma senza garanzie, quindi vuol dire sì, ti posso assumere però non a tempo indeterminato. Cioè oramai ci troviamo di fronte ad una lotta di classe, come dire, del mulino bianco, dove ci sono parole dolci ma in realtà la sostanza è che i lavoratori rimangono senza alcuna tutela. C'è un attacco, come vedi, al reddito di cittadinanza, che pure ha dei limiti enormi ma che in ogni caso ha rappresentato un minimo di garanzia. C'è stato un attacco che tenta di smantellare, anzi ha smantellato, quel poco di decente che c'era nel decreto dignità. Nei luoghi di lavoro aumenta il lavoro a tempo determinato, quindi aumentano gli interinali che vengono utilizzati come forma di ricatto nei confronti di chi ha tempo indeterminato. Sono aumentate appunto le assunzioni a tempo determinato attraverso gli interinali, sono calate quelle a tempo indeterminato. Ormai siamo di fronte ad una destrutturazione del mercato del lavoro e appunto si è lasciato campo libero alle imprese di fare quello che vogliono, insomma, perché l'importante sono i profitti. Tieni conto che quando parliamo di logistica, anche in questo caso, parliamo di lavoratori che hanno sempre lavorato, cioè quelli che venivano denominati eroi sui giornali e che adesso contano meno dei pacchi, perché perlomeno sui pacchi c'è scritto maneggiare con cura, i lavoratori neanche quello possono pretendere e vengono cacciati o con un messaggio o perché scoprono su un giornale che il capannone nel quale lavorano è stato messo in affitto. Voglio dire, il problema è il licenziamento, non le modalità con cui uno viene licenziato, però anche in questo caso è la dimostrazione che siamo di fronte ad un sistema predatore che approfitta di ogni aspetto della vita per creare profitti, e a questo punto i lavoratori sono a volte anche un peso che appunto va spostato e va rottamato senza nessuna comprensione, insomma.